24. La storia. Stavo lavando i piatti e stavo aspettando Cesare che doveva ritornare a casa per cena. Però di solito era abbastanza puntuale, la cena era verso le 20 così, erano le 8:15 e il Cesare non era arrivato. Mio marito nel frattempo doveva uscire per una sua commissione e anche lui non sapeva se uscire oppure aspettare Cesare, perché era una cosa un po' anomala che lui non tornasse puntuale per cena. Fatto sta che siccome doveva andare, va bene, ha detto vado. Tornato quasi subito, mi fa: guarda Angela, non spaventarti, ma deve essere successo qualcosa a Cesare, perché la macchina è lì. Ma al momento noi non pensavamo mai più un rapimento. E invece si trattava proprio di un rapimento, quello della sera del 18 gennaio dell'88. Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è il sequestro di Cesare Casella. Un ragazzo di Pavia di 18 anni, un caso clamoroso che avrebbe tenuto l'Italia intera con il fiato sospeso per 2 anni. E quella donna, la mamma di Cesare Casella, che avete sentito, sarebbe diventata per tutta l'Italia il simbolo di madre coraggio. Il simbolo di una lotta e della determinazione per riavere suo figlio. Ma il sequestro Casella è anche uno dei sequestri più lunghi e tormentati nella storia dei rapimenti in Italia. Ha rapito un ragazzo di 18 anni a Pavia, si chiama Cesare Casella ed è figlio del titolare della concessionaria Citroën della città. L'abitazione dei Casella si trova in una zona isolata e nessuno ha visto o sentito nulla. La città è Pavia. Il rapito è un ragazzo di 18 anni. Il padre, Luigi Casella, è proprietario di una concessionaria di automobili. La madre, Angela, è una casalinga. Il fratello Carlo, di un anno più giovane, studia con Cesare. La famiglia Casella è una famiglia come ce ne sono tante, non particolarmente facoltosa per una provincia del nord ricca come Pavia. Una famiglia che prima di quella sera del 19 gennaio 1988 non ha mai pensato di poter essere obiettivo di un sequestro di persona. Subito dopo il sequestro, la famiglia e la polizia aspettano un messaggio dei sequestratori, ma il contatto tarda ad arrivare. Io mi ricordo che per una settimana ho dormito sul divano, perché non riuscivo a dormire, questo sì. Trascorrono giorni, settimane, i rapitori di Cesare non si fanno vivi. 10 febbraio 1988, decimo giorno del sequestro. Alla fine il telefono squilla. Suona il telefono, rispondo, qui è Maradona. Se volete riavere mio figlio dovete versare 8 miliardi. Maradona. Come parola d'ordine per comunicare con la famiglia, i rapitori scelgono il nome del fantasista argentino. Alla famiglia Casella Maradona chiede 8 miliardi di lire. È il prezzo per la vita di Cesare. Per gli inquirenti non ci sono dubbi. Il modus operandi e gli altri indizi tendono a ritenere che il sequestro sia opera dell'anonima calabrese. Il giornalista Paolo Pollicchieni e il dirigente della criminal pool calabrese Alfonso D'Alfonso ne sono convinti. Personalmente me ne sono occupato da quando si è avuta la certezza che a rapire Casella erano stati i calabresi. E purtroppo bastava dire i calabresi per localizzare un determinato territorio della Calabria, che era il territorio della Locride. Noi intuimmo immediatamente che la tecnica dei sequestratori era probabilmente la solita, cioè rimanere qualche giorno nella zona del nord Italia per poi trasportare l'ostaggio e tenerlo in cattività nella zona spromontana della provincia di Reggio Calabria. A Pavia la famiglia Casella è disperata. Trovare 8 miliardi è impossibile. L'unica speranza è aspettare una nuova telefonata dei rapitori per poter aprire una trattativa. 9 marzo 1988, 50° giorno del sequestro. I rapitori contattano il ragionier Gastaldi, il contabile della ditta Casella. Come ci racconta lui stesso. In un primo momento loro mi chiedono di andare a chiamare Casella l'indomani mattina e non rifletto neanche su questo particolare, dico: ma come, domani mattina io non ci sono, vado in montagna. Vabbè, allora vado a chiamare subito e digli che richiamiamo tra un'ora. La nuova richiesta è di 3 miliardi di lire. per i rapitori non c'è spazio per una trattativa. L'unica garanzia richiesta dal padre di Cesare è la prova che il figlio sia vivo. Massimo Gastaldi, contabile della ditta Casella, riceve una lettera. Il 25 marzo ricevo una lettera, percepisco subito che è la lettera che arriva da parte dei sequestratori, perché è scritta con una calligrafia abbastanza infantile, non riporta il mittente ed è spedita da Bologna. Nella busta c'è una lettera scritta in stampatello, è un messaggio di Cesare. Il ragazzo ribadisce che i rapitori chiedono 3 miliardi e dà le istruzioni per i contatti successivi. Ma Luigi Casella i 3 miliardi non li ha. Nelle settimane successive la famiglia pubblica vari annunci nella speranza di ristabilire il contatto. Angela Casella, madre di Cesare. È una lunga attesa questa per arrivare. Alla fine, nel mese, i primi di agosto, loro accettano 1 miliardo. 10 agosto 1988, 204° giorno del sequestro. I rapitori chiamano casa Gastaldi. Il padre di Cesare deve recuperare 1 miliardo che è riuscito a racimolare e partire per Cosenza insieme a Gastaldi. A consegnare il riscatto dovrà essere il ragioniere. In Calabria i sequestratori fanno ritrovare a Gastaldi una nuova prova che Cesare è in vita e le istruzioni per consegnare il denaro. Dovrà consegnarlo lui, da solo. Seguendo le indicazioni, Massimo Gastaldi raggiunge Samo, un piccolo centro della Spromonte, a cui si accede da un'unica strada e da cui è possibile vedere chi arriva in paese. È buio. Come da istruzioni, Gastaldi si inoltra per una strada secondaria. Una borsa appesa ad un bastone è il segnale per fermare l'auto. Gastaldi prende il denaro e prosegue a piedi. Dall'oscurità spunta un uomo armato. Gastaldi lascia a terra la valigetta e chiede quando potranno rivedere Cesare. E l'uomo risponde: domani. Passa il 15, il 16, il 17 agosto. Cesare però non viene liberato. Luigi Casella e Massimo Gastaldi tornano a Pavia. Non resta che aspettare, passano altre 2 settimane. Ai Casella arriva una nuova lettera dei sequestratori. Il miliardo consegnato è da considerarsi solo una prima rata. Per riavere Cesare occorrono altri 2 miliardi. La famiglia non li ha. Ogni contatto si interrompe. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del sequestro Casella. È il 23 novembre dell'88. Dalla sera del rapimento sono passati 309 giorni. I rapitori scrivono di nuovo, non accettano di mercanteggiare. Quando la famiglia avrà i soldi dovrà pubblicare un annuncio. Maradona, siamo pronti. I Casella cercano un nuovo contatto, ma i sequestratori non rispondono. Angela Casella, madre di Cesare, racconta quel momento. Il tempo non passa più, deve trovare qualsiasi cosa per far passare queste ore e questi giorni. Bisogna cercare un equilibrio e ognuno di noi tre, mi ricordo che il Carlo doveva studiare di più. Io lavoravo a maglia, ricamavo, facevo di tutto. Poi il pensiero arrivava a Cesare, diventavo sudata, dovevo smettere, uscire, bere, perché non riuscivo. Il 1988 sta per finire. È trascorso ormai quasi un anno dal sequestro. Per la famiglia Casella è il primo Natale senza Cesare. Non mi ricordo più bene se è Natale o Capodanno che abbiamo rivisti tutti i filmini. Dalla nascita fino ai 18 anni. Piangevamo, piangeva. All'inizio di questo anno nuovo non posso non rivolgere il mio pensiero a tante famiglie che vivono nell'angoscia a causa dei loro familiari tenuti sotto sequestro. Ma i rapitori non rispondono neanche a Papa Wojtyła. Sono passati ormai 4 mesi che la famiglia non riesce a stabilire contatti con i sequestratori. Dal rapimento è passato più di un anno. Un anno che Cesare ha passato in catene in Aspromonte. I Casella pubblicano l'ennesimo annuncio per i rapitori. Hanno trovato i soldi, sono pronti a pagare. Per poter agganciare un altro discorso con i rapitori, abbiamo avuto la bellissima idea di dire che i soldi c'erano e eravamo pronti a pagare quello che ci avevano mesi prima richiesto, ma non era vero, era solo per avere notizie di Cesare. Nella partita a tre che si gioca tra i rapitori, la famiglia e lo Stato, è il momento più difficile. Il magistrato che si occupa dell'inchiesta, Cesare Beretta, decide di coprire il disperato bluff della famiglia. Tutti i loro beni e i conti correnti vengono bloccati. I sequestratori, saputo del blocco dei beni, fanno pervenire un messaggio alla famiglia. Accusano il padre di aver concordato l'operazione con la polizia e gli danno 15 giorni per consegnare il denaro. La famiglia, sempre più disperata, fa un'altra mossa. Il padre di Cesare torna in Calabria. Ha con sé 500 milioni. Tutto quello che è riuscito a recuperare. Alfonso D'Alfonso della Criminal Pool calabrese racconta così. Sì, noi seguiamo questa iniziativa e naturalmente facciamo di tutto perché questa iniziativa possa essere più mascherata possibile per dare l'impressione ai sequestratori che le forze di polizia se ne stiano un po' dietro le quinte. 5 giugno 1989, 503 giorni dal sequestro, Luigi Casella è all'hotel Number One di Marina Gioiosa Ionica. Riceve una telefonata dei sequestratori, sono furiosi. Non accettano i 500 milioni, anzi dicono che ora non vogliono più 2 miliardi. Ne vogliono 5, altrimenti non rivedrà più suo figlio. Luigi Casella torna a Pavia, mentre la moglie, Angela Casella, prende una decisione. Ce lo racconta lei stessa e il giornalista Paolo Pollicchieni. I rapitori non hanno accettato, anzi gli hanno dato del bastardo, gli ha detto: se non ci riporti 5 miliardi tuo figlio morirà. È ritornato a Pavia, entra dalla porta, mio marito mi fa: senti Angela, adesso puoi andare in Calabria. Giorno che sono andata a San Luca è stata veramente drammatico. Sono andata lì in piazza dove c'era il municipio, mi sono seduta, ho aperto il mio tavolino, il mio libro, ma la gente non si avvicinava nessuno. Ho passato 2 ore in quella piazza da sola, poi alla fine ho pensato: va bene, se loro non vengono da me, andrò io da loro. Ho cominciato ad andare da una persona a parlare, poi furtivamente passata di lì una vecchietta, mi ricordo di averla fermata, lei si è fermata, ecco, da lì, da una semplice vecchietta sono arrivati un po' tutti. Angela Casella voleva parlare con le donne, con le mamme di questo paese, raccontare la sua triste esperienza, invitarle ad esserle vicine in questo particolare momento. L'obiettivo è stato centrato. Prima ad una, poi a gruppetti, le donne di San Luca nei loro abiti scuri si sono avvicinate, hanno abbracciato mamma Angela, hanno detto che pregheranno per lei e per suo figlio Cesare. Decine di donne, insegnanti, casalinghe, mamme, le si sono strette attorno ed hanno inscenato una pacifica ma significativa manifestazione per le vie del centro di Locri. Per la prima volta in Calabria scendono in campo le donne, la Chiesa, chiedono la liberazione dei sequestrati ma anche posti di lavoro e un ritorno alla certezza del diritto. Uomini, che tenete in ostaggio il figlio di questa madre addolorata, rendetevi conto che un giorno morremo e date la libertà al povero giovane. E quindi ci fu anche un momento di forte risveglio delle coscienze, soprattutto nei paesi della Riviera, Loki Bovalino. I giovani hanno invece voluto sottolineare che troppo spesso vengono dipinti come banditi, ma che a San Luca la gran parte è gente onesta che è lasciata sola a combattere e a farsi giustizia da sé. In un angolo della piazza invece i vecchi hanno seguito ogni movimento con distacco, quasi con fastidio. Quella donna coraggiosa sta forse mettendo a nudo le verità di questa gente, troppo spesso obbligata al silenzio e all'omertà. Per un mese ci fu il caso Casella che dominò le prime pagine, le copertine dei telegiornali, quindi ci fu una grande attenzione. Io penso che questa fu una cosa che non sorprese la signora Casella, perché era proprio quello che lei voleva ottenere. C'era tutto il mondo che sapeva che in quei paesini lì esistono degli uomini che tengono in ostaggio un ragazzo. Beh, non è da poco. L'atteggiamento della signora Casella è qualcosa che nessuno mette in conto. Le istituzioni devono rispondere. Il presidente della commissione antimafia, Gerardo Chiaromonte, lancia il suo atto di accusa. Qui non ci sono i magistrati per fare i processi, non ci sono il personale ausiliario. Davvero lo Stato non fa niente. Un sostituto procuratore di Locri, Ezio Arcadi, questa mattina ha ammesso: i sequestri? Forse è vero che non siamo attrezzati adeguatamente. Sì, siamo in ritardo. A Reggio, partita la commissione antimafia, arriva l'alto commissario Domenico Sica. E Locride viene cinta d'assedio dalle forze di polizia. Comunque abbiamo costituito un nucleo speciale proprio per prelevando, diciamo, il maggiore esperto che abbiamo nella materia, il questore Pazzi. Il ministro dell'Interno Antonio Gava spiega così l'avanzamento dell'operazione. Intanto, grazie all'operato di Angela Casella, sono riuniti in Calabria i massimi vertici contro i sequestri. Un risultato inaspettato. Ieri sera a Locri la signora Casella ha passato la notte in tenda, una tenda piazzata davanti al comune, per provare, ci ha detto, cosa sta provando mio figlio. Io me lo auguravo che il Cesare potesse captare qualcosa attraverso qualcuno o tramite tramite qualcuno, sì, lo speravo proprio enormemente. Domattina il Consiglio Comunale di Locri si riunirà in seduta straordinaria e secondo la richiesta dei capigruppo dovrebbe rassegnare le dimissioni in segno di solidarietà con la mamma di Cesare Casella. 26 giugno, 524 giorni dal sequestro. Angela Casella torna a Pavia. Il giorno dopo si ha il primo risultato concreto della sua protesta. I sequestratori fanno sapere che vogliono venire incontro alla famiglia. Il prezzo del riscatto scende ad 1,5 miliardi. Luigi Casella chiede ai banditi di riaprire la trattativa. L'attesa ricomincia. Caro Cesare, 20 anni fa ero la donna più felice del mondo perché quella notte erano arrivati sulla luna e poi sei arrivato tu. Sono le parole che mamma Casella rivolge al figlio da quasi 19 mesi sotto sequestro attraverso le pagine di un quotidiano. In mano mamma Casella ha una torta con due candeline accese, simbolo dei 20 anni che Cesare compie proprio oggi. Per Cesare Casella è il secondo compleanno passato in catene in Aspromonte. I giorni si fanno settimane e poi mesi, dalla Calabria solo silenzio. 8 ottobre, 628 giorni dal sequestro. I sequestratori si fanno vivi con una lettera. Fanno sapere di aver applicato un ulteriore sconto sul riscatto, 1 miliardo. La lettera specifica anche le modalità di pagamento. Così racconta ancora Angela Casella, madre di Cesare. I rapitori avevano mandato un'altra lettera dicendo che noi vogliamo questa Jeep, il colore grigio, e volevano una Suzuki color grigio. E dovevamo andare o io o mio marito, non gli interessava chi, ma la macchina doveva essere di questo colore. Ma questa volta gli inquirenti non intendono restare a guardare. Avevano deciso che si devono sostituire. Io personalmente ho lottato per questa cosa, perché volevo andarci io e mio marito, ma non c'è stato niente con il magistrato. Era una cosa, il magistrato era molto fermo nelle sue decisioni. Ma se sua moglie commette qualcosa, io la metto persino in prigione. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di Cesare Casella. per 2 anni sotto sequestro. Finalmente, dopo 628 giorni di prigionia, un nuovo contatto e una nuova richiesta di riscatto. Per ordine del magistrato, i carabinieri però si sostituiscono a Luigi Casella nel pagamento dell'ultima cifra richiesta per rilasciare il prigioniero. Nascosti nel bagagliaio della macchina, i militari sorprendono i rapitori e ingaggiano un conflitto a fuoco. Un componente della banda viene ferito e arrestato. E Giuseppe Strangio, ritenuto il capo dell'organizzazione che da oltre 2 anni tiene sequestrato Cesare Casella, era andato a riscuotere la scorsa notte l'ultima rata del riscatto, 1 miliardo che un emissario della famiglia Casella doveva consegnargli nelle campagne di Natile in Aspromonte. Ha trovato invece i carabinieri dei gruppi speciali che dopo un breve scontro a fuoco lo hanno ferito ad una gamba e catturato. Sono Giuseppe Strangio, faccio un appello ai rapitori che hanno in mano Cesare Casella, di non togliere un cappello, di rispettarlo, di volerlo bene. Se avete dei figli o non avete figli, avete una coscienza, vedete che lo dovete rispettare, né più chiaro, volerlo bene. Se lo dovete liberare, lo liberate. Se lo dovete tenere, cercate assolutamente al 1000 per 1000, non togliere un capello e mettetevi in contatto con la famiglia. Questo messaggio per noi fu un messaggio estremamente positivo, positivo perché ci rendemmo conto che ormai la partita per i sequestratori era persa. Era persa perché il messaggio era chiaro, per che rilasciassero al più presto l'ostaggio. Giuseppe Strangio, il dirigente della criminal pool Alfonso D'Alfonso e la famiglia Casella sono le 3 pedine nella partita 3 sulla vita del giovane Cesare Casella. I sequestratori con Giuseppe Strangio perdono un elemento importante, ma non è ancora finita. Avevano catturato un capo. Ecco, da lì io non sapevo se essere felice o contenta, se era un bene o un male. Ecco, lì è stata un'attesa giorni e giorni e giorni, ma i giorni passavano e verso la fine di gennaio, per 2 o 3 giorni, io ho avuto un tracollo perché ho detto no, il Cesare non torna. Perché hanno capito che noi li abbiamo ingannati e può darsi che adesso si rivalgono su Cesare e queste cose. 3 gennaio 1990, 715 giorni dal rapimento. I sequestratori mandano una lettera con una foto di Cesare e le istruzioni per l'ultimo pagamento. Il ragazzo ha in mano una copia del Corriere dello Sport con la data del 31 dicembre 89, ma sull'autenticità della foto ci sono ancora dubbi. Insieme alla foto è stata anche recapitata una lettera del ragazzo indirizzata al padre. Ti scrivo queste righe per farti sapere che sono ancora vivo. Questo è l'ultimo messaggio che riceverai. Fai quello che ti dicono, altrimenti hanno detto che mi uccidono. Nei giorni seguenti la famiglia vorrebbe dare il via al pagamento. Il magistrato Vincenzo Calia dice però di aspettare. La polizia ormai pensa di essere vicina a liberare Cesare. Il capo della criminal pool Alfonso D'Alfonso e il giornalista Paolo Pollicchieni. Avevamo individuato sia i comuni interessati a questo sequestro, sia i gruppi della criminalità che stavano gestendo questo sequestro Casella. Era palese che si aspettava da un momento all'altro la sua liberazione e allora ormai stavamo serate intere in caserma fin quando arrivò la notizia la dritta giusta e allora ci siamo scaracollati a Natile di Careri dove Cesare Casella è stato portato subito dopo la sua liberazione. Buonasera, Cesare Casella è stato liberato a Natile di Careri, un centro dell'Aspromonte a pochi chilometri da San Luca. I carcerieri lo hanno incatenato e legato ad un palo nel greto di un torrente. Cesare però riesce a liberarsi e fugge. Sempre con la catena al collo, alla periferia di Careri, bussa alla prima casa che trova, quella del pensionato Salvatore Giugni. Dalle donne di casa Giugni, Cesare riceve il primo segno di solidarietà. Un abbraccio ed una tazza di latte caldo. Poi arrivano i carabinieri avvertiti per telefono e lo spostano in caserma, a Careri, quindi alla compagnia di Locri. Attorno all'1, scortato dai carabinieri di Reggio Calabria e Catanzaro, Cesare lascia Locri per l'aeroporto di Lamezia. Tutta l'Italia, tutta l'Europa probabilmente è stata in ansia per te. Come stai? Adesso sto bene, sì, di salute sto bene. Perché specifiche però, di salute? È stata paura, ci ho avuto un po' di paura in questi ultimi giorni. Perché sopra in questi ultimi giorni? Specialmente stasera. Io a quel punto pensavo alla madre, non... Non mi è mai capitato in altri casi, cioè, però in quella circostanza io pensai alla madre alla fine di questo incubo, di questa donna che era diversa da tutto e da tutti, era diversa anche dal marito, era diversa, cioè, era veramente un personaggio, una madre autentica. E quindi quella sera pensammo subito a lei. Stavo guardando la televisione, era anzi un po' sonnecchiata. Erano le 10 e mi suona il cancello. Vado ad aprire e con grande meraviglia mi trovo di fronte il magistrato. Io al momento sono rimasta lì, mi ho detto, ma cosa fa qua? E lui me l'ha detto proprio quasi piano, adagio, gentilmente, sottovoce, ma hanno liberato Cesare. Insomma, gliel'ho fatto ripetere 10 volte. Dopo la 10ª volta, allora ho cominciato a tremare, la felicità, partire in quarta, andare in macchina, perché mi fa adesso deve venire dai carabinieri. Loro mi prendono, mi fa, signora, ma si va di vestire perché sembrava una strega. Qui capelli giù, in pigiama, tutto scialba, no, brutta. E mi fa, no signora, si va di cambiare, perché non può venire in quello stato lì, perché proprio non capivo più niente. Ho cominciato a tremare, stavo male. La felicità, si può anche morire. Dalle 6 di questa mattina, con un volo Lamezia Terme Milano, è arrivato alle 6:05 all'aeroporto milanese di Linate, militare. Sentiamo che cosa ha detto. Come stai, Cesare? Non vedo niente. Sto benissimo. Sta bene, sta Andrea bene. Andrea Pavia di Cosa. A Pavia la notizia della libertà di Cesare Casella ha scatenato subito un entusiasmo indescrivibile. Applausi, canti, balli in piazza. Felicitazioni soprattutto all'indirizzo di mamma Casella, la mamma Coraggio, che non ha esitato nei mesi scorsi ad andare in Calabria per cercare di ottenere la libertà di suo figlio. Eccola Angela Casella che applaude, fa al signore la vittoria, ringrazia chi la sta applaudendo. Poi alle 7:30 del mattino l'arrivo a Pavia di Cesare Casella, il lungo corteo di auto dei carabinieri che è arrivato anche qui tra gli applausi, in un momento di grande commozione, il momento più toccante in caserma, l'attesa della madre, poi l'incontro. Ci sono i capelli lunghi. Sto benissimo. Sto benissimo. Se tu mi stai male, guarda chi sei magra. Guarda. Per ora. È in forma. Siete stati voi peggio di me. No. Io se potevo comunicare con voi non so quante cose avrei detto. Sono imbarazzato, sono emozionato. Io per 2 anni ho visto solo gente incappucciata. Adesso tutta questa gente qua non so cosa dire. Angela e Cesare Casella, 743 giorni dopo, è il commovente abbraccio di una madre che ha combattuto per la libertà del figlio un'autentica guerra in prima persona. Madre Coraggio ha atteso per 2 anni e 12 giorni e ancora per tutta la notte questo momento, poter stringere a sé quel figlio che le era stato sottratto. Cesare Casella, sequestrato per 743 giorni, che abbiamo intervistato, risponde così. Non mi rendevo conto quando ero là di tutto quello che stava succedendo, di tutto quello. Non me ne sono reso conto neanche dopo, perché preso da tutto il trambusto, da tutto il caos che si era creato dopo tutto intorno dopo la liberazione, non mi ero. E tu avvertivi solo una freddezza o qualche cosa ti diceva? No, erano alle volte qualche battuta gli è sfuggita su mia madre. Dicendo tipo? E fa tanto noi non ci cambia niente. Non abbiamo paura, facevano i duri, certo, perché chiaro, avevano paura. Chiaro, chiaro. Senti che madre però. Che mamma che c'hai, mamma mia. sì, un donino così, ha rivoluzionato tutto quello che era l'approccio del... Ma poi gli ha messo un po'... gli ha messo, come si può dire, un po' il fuoco. Sì, sì, il pepe, diciamo. Il pepe dietro ai politici che stavano a Roma. Perché, certo. Perché io in Italia sono convinto che noi abbiamo le capacità per debellare questo reato qua, ma finché non c'è stata una volontà politica, finché non c'è stato i giornali e compagnia bella che ne parlavano sul... Finché non c'è stata mamma Casella. Esatto. Finché non c'è stato questo, nessuno si è mosso. Senti, tua madre ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo, ha detto: di felicità si può anche morire. Ecco. Certo, è una sensazione che hai avuto anche tu quando l'hai riabbracciato, no? Ma io più che altro ero frastornato. Perché due anni di silenzio. Due anni che parlavo sì e no, due o tre volte al giorno con queste, ma proprio qualche parola, no? Ma tipo che parlavo, scambiavo qualche parola, gli chiedevo dei giornali quando veniva a portarmi da mangiare, e a trovarmi intorno tutto così, io non mi immaginavo, ma io pensavo dentro me che no, ma si sono messi, si sono dimenticati tutti, mi hanno dato per morto, e perché non avendo nessuna notizia, niente di niente. Non avevi nessuna notizia, neanche negli andamenti sì, diversi della trattativa? Sì, qualcosa, però non mi immaginavo tutto quello che era, non me lo potevo immaginare, anche perché a me quando l'hanno portato via non sapevo l'ho scoperto sei mesi dopo che ero in Aspromonte, io non sapevo neanche che esistesse l'Aspromonte. Cioè, no? L'hai scoperto dopo? L'ho scoperto dopo l'ho scoperto, perché chiaramente mi portavano il giornale, la Gazzetta del Sud, che è pubblicato in Calabria, quindi l'ho scoperto dopo. Ma perché ti davano il giornale? Io chiedevo, ho detto piuttosto portatemi, non portatemi da mangiare, ma portatemi da leggere, perché sennò diventavo matto, dovevo tenermi impegnato. Mix 24, la storia. Rieccoci con Cesare Casella. Volevo tornare un momento al momento del sequestro. Ti hanno preso facilmente, hai lottato oppure cosa hanno fatto? No, perché non l'abbiamo raccontato, si è visto tuo padre che ha scoperto la macchina, ma non... Io tornando a casa, era sera e c'era la nebbia, io come tutte le sere tornavo a casa, avevo la patente da qualche mese e mi sono trovato davanti una macchina parcheggiata, quando io ho fatto per curvare, la macchina si è mossa. Io faccio per passare, la macchina ha fatto questa retromarcia e mi ha tamponato, di modo che mi ha fermato, sono sceso in tre con la pistola. E ti hanno detto cosa ti hanno detto? Sei Casella? Mi hanno detto no. Io così istintivamente ho detto di sì, no? E niente, sono sceso con le pistole, mi hanno tirato fuori a forza. E chiaramente io quando ho visto le pistole non hai reagito, ho pensato meglio di non reagire, meglio star calmi. Esatto. E quindi caricato e portato via lontano o no? No, portato via, abbiamo fatto un tragitto di una mezz'ora e poi mi hanno consegnato altre due persone che ho scoperto poi erano i capi della banda. Che tra l'altro erano il Maradona. Maradona perché? Maradona perché Maradona perché questi erano i due capi banda, erano in due, no? Sì. E io siccome non potevo chiamarli, non sapevo come li chiamo, l'ho detto per me tu sei Maradona e l'altro era Careca, no? Ah. Erano così, no? E allora loro hanno... Quindi loro hanno usato Maradona, l'ho dato io il soprannome di Maradona. E allora dopo loro si firmavano Maradona perché avevano... Gli era piaciuto. Ecco, però da questa mezz'ora di trasferimento che ti hanno consegnato e poi per andare in Calabria, quanto tempo è passato? Molti giorni o no? Io ho passato 15 giorni in un garage, nel garage con questi due killer. Tutti in macchina eravate? Tutti e due in macchina, tutti e tre in macchina. 15 giorni? Tutti e tre in macchina, sì. E all'inizio ero legato, poi dopo si vede che un po' si fidavano un po' di me così e mi davano delle pastiglie dei sonniferi. Cercavi così di parlare con loro o no? Sì, no, io forse una fortuna, il fatto che mi abbiano anche relativamente trattato bene è perché io ho tentato comunque di tenere un dialogo con queste persone qua, no? Hanno capito che comunque io non gli avrei creato dei problemi, però allo stesso tempo avrebbero dovuto rispettarmi. Le capacità dell'uomo di resistere sono infinite proprio. L'uomo si adatta a tutto. E anche perché io comunque non mai avrei pensato di stare due anni. Certo, uno, se pensa, pensavi di stare uno pensa domani, sempre di tornare il giorno domani. dopo una settimana, quindi uno non pensa di rimanerci due anni, altrimenti esce pazzo veramente. Ma lì non, cioè, è sconvolgente proprio la sensazione di fine della vita, perché è un soffocamento progressivo. Ma quando ti portano lì ti dicono: guarda, questa è una cosa provvisoria, aspetti una settimana, 15 giorni, ecco. E poi tentano sempre comunque di prenderti in giro, poi comunque. Cioè, in qualche modo però è un prenderti in giro che serve per alimentare la speranza di sopravvivenza. Sicuramente, certamente, sì. E uno si attacca a questo racconto che ti fanno loro. Certo. No, poi comunque. Non è che venissi maltrattato da queste persone, peggio di così, difficilissimo. Ero maltrattato nella sostanza, ma a parole diciamo ero in un certo senso rincuorato. Ma loro stavano lì intorno, cosa ti dicevano? Ti teniamo qua perché i tuoi sono brutti e cattivi, non pagano? Loro tentavano, insomma, alcuni tentavano di scaricare le colpe, però chiaramente io l'ho accettato una volta, due, ho detto almeno non ditemi niente perché preferisco che non mi dite. Conosco mio padre e mia madre. È chiaro, certo. E poi soprattutto, dato che hai scritto, mi sembra solo due o tre lettere, no? Un paio di lettere, sì, non di più. Sì, due o tre, sì, non di più. Quindi... Sì, no, loro è proprio un reato meschino questo, una roba è brutta. Ma rapidamente, mi puoi dire com'era un pochino, se si può raccontare la giornata tipo? Cioè tu che... Ma la giornata per far passare il tempo, ogni cosa era scandita, cioè io mi alzavo, quindi prima facevo ginnastica, piano, poi mi lavavo, tentavo di lavarmi per quello che era possibile. Per lavarti poi... dovevi uscire? No, facevano uscire di lì? Quindi. No, non sono mai uscito da lì. No, io avevo le catene e potevo soltanto magari sedermi, ma alzarmi in piedi non potevo uscire. E quindi chiaramente dopo un po' uno si riesce anche a organizzarsi dentro in quei due metri per due, no? Quindi magari cercavo di lavarmi, poi facevo colazione, poi magari fumavo una, perché poi avevo le sigarette tutte contate, tutte le cose, e quindi cercavo insomma di scandire la giornata. Ma che cosa dentro di te, che cosa hai trovato che non sospettavi di avere? Cioè che tipo di forza, che pensieri? Ma non lo so, è strano, è una cosa che anch'io pregavi, non lo so, cioè avevi un attivamento? Sì, un po' pregavo e un po' dicevo devo farcela, devo tornare a casa, perché lì è la forza anche dell'incoscienza, perché essendo così giovane uno non sa bene anche il pericolo che io posso aver corso, certo. tutto quanto. Ma senti, ma avevi freddo, caldo, cioè ti davano abbastanza Più che il freddo era il caldo, più che il freddo d'inverno era il caldo che faceva l'estate. Lo Stato, si è parlato molto dell'intervento dello Stato in questo caso e in altri casi per pagare in qualche modo, sostenere. Per quanto tu ne sai, lo Stato è intervenuto o no? Ma per quanto io ne so, no, nel senso che l'ultima cifra che la mia famiglia avrebbe dovuto pagare non è stata pagata, e questo è pacifico. Se poi dopo è intervenuto i servizi segreti o qualche altra forza così, non lo so. Ma la voglia di saperne di più, di andare in fondo, non ce l'hai avuta? Ma no, io sono, diciamo, tra virgolette contento che la mia esperienza sia servita per mettere fine a questi sequestri di persona, perché ci è voluta comunque una legge che è stata applicata per la prima volta nel nostro caso. In qualche modo tu sei favorevole al blocco dei beni? Sì, col senno di poi sicuramente, sicuramente, perché non si può trattare con dei delinquenti, cioè questi commettono un reato, tu non puoi andare a trattare, mentre prima si è sempre trattato con la mafia. Perché non c'era la legge. Senti, tu hai rivisto i tuoi rapitori ai processi, no? Sì, alcuni. Quanti? Alcuni, però sinceramente non mi sono mai... Cioè, come cittadino ho fatto il mio dovere, nel senso che ho testimoniato, ho fatto quello che era mio dovere fare. Però come uomo non provo neanche rancore per queste persone qua, perché penso che comunque non facciano una bella vita, quindi... Senti... Loro come hanno recepito questo messaggio, no, televisivo del bandito preso. Di tu hai, avuto hai saputo che lui ha fatto questo messaggio o no? Quando eri dentro là? Niente. Ho saputo che era stato preso. L'hanno detto loro? No, l'avevo letto sul giornale, su un trafiletto, perché loro mi censuravano, no? Loro toglievano le pagine che riguardavano i sequestri. Certo. Però si vede che gli era sfuggito qualcosa. E quindi io avevo saputo che c'era stato un intervento. Questa cosa ti ha dato speranza o paura? Un po' di tutte e due, però anche lì, non sapendo niente, io non avevo tanti problemi. Preoccupavi di sopravvivere soprattutto. Ecco, senti, la cosa che abbiamo visto soprattutto è questa donna straordinaria, no? Che è tua madre. Ecco, dopo quell'esperienza, quell'esperienza lì ha cambiato il vostro rapporto oppure no? Sicuramente è più sincero, non lo so come dire, però la mamma rimane sempre la mamma, insomma, quello che abbiamo passato ci ha uniti di più, quello di sicuro. Ne avete riparlato molto? Non tantissimo, perché io non ho voluto raccontargli tante cose per non farli soffrire di più, no? E forse anche loro. Per chiudere ti voglio fare un'ultima domanda. Tu hai detto quella sera, la sera della liberazione, abbracciando tua madre, hai detto: non so cosa dire. Ecco, oggi che cosa gli vorresti dire che quella sera non sei riuscito a dirgli? Gli vorrei dire grazie, perché è una cosa. Forse non sarei tornato. Senza l'intervento di mia madre non sarei, forse ero ancora là. Quindi grazie mamma. Sì, grazie mamma, sì. Grazie a te, allora Cesare, auguri. Grazie. Ciao. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.